molto più carine coperà. Puntata numero 6 di Firenze in vacanza, vizi e virtù dei fiorentini in ferie, per sapere da Radio Big World e dal suo contatto fiorentino come i fiorentini pensano, vivono e fanno le loro ferie e le loro vacanze. Dicevano, ma che ce frega? E invece vi frega, perché se avete andare a Firenze, andate lì e dite sia della provincia, quelli subito fanno la faccia strana, come dire, sti pezzenti. Se invece tirate fuori l'argomento di conversazione giusto, perché tanto da Firenze in tantissimi mi se ne vanno anche solo per qualche ora durante l'estate, beh, magari la vostra pratica, invece di essere rimessa in fondo alla pila, gli danno un timbro e ve la approvano. E dunque salutiamo Laura, che anche oggi ci aiuterà nel ottenere quel timbro sulla pratica che i fiorentini non ci danno mai. Laura! Ciao, eccomi qua di nuovo. Laura, Feste e sagre a Firenze, in Toscana e fuori dalla Toscana, perché insomma sembrano mischerate, ma nell'estate da maggio in poi e fino a che non è brutta stagione, questi cartelli di feste e di sagre sono dappertutto. Una volta li facevano di una carta fosforescente che era rossa o arancione, e lì si capiva che era partito il tempo delle sagre. Per esempio, qui da noi la sagra dell'Ocio di Ruscello è una cosa di cui ne parlano tutti. Praticamente è un po', insomma, c'è dei capannoni, un mercatino, e servono questo Ocio, che è il maschio dell'oca, io da quello che ho capito, in umido. Sì, certo, ma si può chiamare Ocio, si può chiamare Oco, insomma, no, poi a seconda del paese toscano che ospita la sagra può avere anche diversi nomi. E il piatto forte della sagra di Ruscello sarà il concerto di Fausto Leali. Pensate, incredibile, a chi? E quelli sono di Arezzo e gli fanno alò, pensate, fatto sta. E Pupo? Pupo non ci va alla sagra. Pupo c'è già stato, addirittura l'autostrada rischiò un tilt dalla gente che usciva per andare al concerto di Pupo. Pupo è amatissimo dalle nostre parti. Di queste sagre se ne parla tantissimo, la sagra di Ruscello, sono 2 settimane che c'è la gente che dire, oh, allora sentito chi canta, chi batte, dove vai, che ti piace. Ci sono delle, insomma, facciamola breve, ci sono per i fiorentini delle sagre a cui piace partecipare, magari a Firenze o vicino a Firenze? Di preciso non lo so, perché io me ne vado sempre al mare ad estate, però noblesse allora oblige. A, in posti dove è un po' più fresco, quindi sulle colline. B, in posti dove sei sicuro di mangiare bene quel prodotto lì, tipo tortello mugellano, insomma, sei sicuro. Oppure C, in posti particolarmente economici, con un buon rapporto qualità-prezzo. E poi poco importa se magari in un posto di collina c'è la sagra del pesce, ecco. Magari non ci si domanda se c'è veramente nesso tra il territorio e il prodotto. Però, insomma, si va anche per risparmiare rispetto a un ristorante, per stare all'aria aperta. Però, ti dico che ultimamente queste sagre sono diventate più care rispetto agli anni passati. Concordi? Senz'altro, ma non solo concordo. Qui c'è stata una bagarre che è finita spesso in tribunale, perché a un certo punto i ristoratori hanno detto, beh, qui non è questione di organizzare sagre, ma qui è questione di organizzare servizi di ristorazione senza pagare le tasse. Tant'è che poi i sindaci si sono messi lì a fare le ordinanze, si sono messi d'accordo, c'è stata la rivoluzione. Però fatto sta che si va lì e si spende ora un qui da noi tra il 15 e il 20, e alla fine si mangia su piatti di plastica. Sì, si mangia, ma insomma neanche così sulle tanto. Sulle panche, dure, scomode, senza appoggiare la schiena. Ti servi da solo, ti devi aspettare, devi prendere il numerino, devi fare la fila. Ma insomma, spendo 5 euro di più, me ne vuoi al ristorante, giusto? questo comincia a essere il pensiero di molti. Quindi, infatti. anche a Firenze. Mi confermi che l'idea della sagra tipo anni 80 comunque si è molto sgonfiata, ecco, come sì, evento. Sì, confermo. E poi negli ultimi anni è venuta fuori anche l'usanza di molti ristoranti che prima erano solo al chiuso di mettere i tavolini fuori, mm-hmm, lungo le vero. strade. Quindi quando hai voglia di mangiare fuori puoi anche benissimo rimanere in città e andarti in un bel ristorantino dove sei sicuro che ti servono e te ne stai tranquillo, sereno e comodo. Spesso la sagra però è anche un bel posto per così qualche analisi sociologica. Senz'altro! Chi sono gli organizzatori, chi sono i camerieri che servono. A volte vedi dei bambini e sono veramente piccoli, dici ma questi poverini ma li sfruttano, poi vabbè in realtà si divertono e imparano un po' a destreggiarsi fra i vassoi, che carino. Sfruttati però, sfruttatissimi di sicuro. C'è un proverbio andaluso che dice più o meno così, tradotto in italiano: lavoro di bambino è poco, ma chi non lo sfrutta è loco. Insomma, evidentemente anche nei nostri posti di campagna si è legati a una certa tradizione che vede i bambini a lavorare. Ma a proposito di lavoro nelle sagre, io ho notato una cosa, negli ultimi 5-6 anni. Da noi le sagre sono diventate efficientissime nel servire. C'è un sistema con i numerini, c'è un sistema che ti mette a sedere, fatto sta, le ultime a cui sono stato, ma negli ultimi anni il servizio era rapidissimo. Hai notato anche te questo tipo? No. Di... No, assolutamente. Anzi, mi sono trovato in certe sagre ad aspettare veramente tanto, e ti passa pure la voglia. Aha. E poi, anzi, sai cosa? Se magari anche se ti servono subito, poi però se malaguratamente ti sei scordato un contorno, a richiederlo è un casino, perché devi rifare tutta la trafila, il numero, la fila, la cosa, che magari poi ti arriva dopo un'ora e non ti va più. Quindi abbiamo un know-how noi di provincia, senti te che parole arrotate, abbiamo un know-how che magari sarebbe vendibile ai fiorentini, interessante, tanto quelli non li freghi e prima o poi uno tenta di fregare loro e gli portano via il portafoglio, la casa e la moglie se uno ce l'ha. E a proposito di chi i fiorentini non li vede tanto di buon occhio, la Toscana in estate pullula di feste antifiorentine o in funzione antifiorentina: il ponte a Pisa, il Saracino a Arezzo, il Palio a Siena. E perché antifiorentine? Antifiorentine perché tutte celebrano la Toscana prima della conquista medicea. Okay. Ti faccio un esempio: c'era un gruppo di amici che andò a vedere una di queste rievocazioni storiche in una di queste località del Senese particolarmente turistiche. Insomma, c'era la rievocazione, a un certo punto i fiorentini cattivi attaccano i senesi buoni, c'è la battaglia, erano attori, mica si davano per davvero, e nel pathos della battaglia c'è un silenzio, e un mio amico a un certo punto fa, nel silenzio più fitto, perché la rievocazione prendeva, forza Firenze! Praticamente nel giro di pochi minuti in quattro gli sono saltati addosso. Gelo. E se non era per un gruppo di ultra di Empoli che venne in soccorso di quel nostro amico, chissà, forse lui a Siena si sarebbe ricordato dell'esperienza. E la festa per eccellenza è proprio quella del palio prima di Firenze, le contrade, quando Siena era una repubblica ricca e importante. Come vivono i fiorentini il palio di Siena? Non ce ne può fregare di meno. Zero proprio. C'ho un amico fiorentino che è un appassionato contradaiolo, però è solamente perché ha degli amici stretti di famiglia senesi e quindi fin da piccolo è stato portato lì in contrada, eccetera. Però ecco, il fiorentino che non ha contatti con Siena proprio niente, anzi... si domanda come sia possibile un tale accanimento nei confronti di... quante sono? 17 contrade, un tale attaccamento, una tale passione per un evento che dura 5 minuti all'anno per due volte così, e non lo so, magari fa anche del male ai poveri cavalli, non è molto compreso. Credo sia una delle cose che se tu non vivi da dentro non puoi capire, insomma, io non voglio dare giudizi, ma da esterna non lo capisco molto. Beh, avrà un senso, a Siena ne avrà tantissimo, stupido non è nessuno, quindi se intorno a quell'evento c'è tutta quell'organizzazione, oltretutto certo, l'evento certo. È bellissimo, è spettacolare e è piacevole almeno osservarlo da fuori, poi non è tanto piacevole essere lì, perché a Siena essere di una qualsiasi altra parte della Toscana che non sia Siena è come praticamente essere di un altro pianeta o di un altro continente. Quindi addirittura per noi osservarlo rispetto, che ne so, agli studenti fuori sede calabresi o campani forse risulta più difficile. Comunque abbiamo capito due cose importantissime, e cioè che sagra sì, se però il rapporto qualità-prezzo, ragazzi siamo a Firenze, se il rapporto qualità-prezzo vale la candela, se no direttamente ci siamo fatti più raffinati, si va a questi ristorantini che mettono i tavolini fuori e ormai sta diventando il delirio. Addirittura Firenze ora con il centro chiuso c'ha proprio i tavolini fuori, ma lì occhio perché quella è una trappola per americani. E sì, gli americani fossero ricchi, per chi? Per i nuovi ricchi di ora, noi si dice gli americani hanno tanto. E l'altra è che del Palio di Siena a Firenze con nobile medicea nonchalance non gliene frega un accidente. Grazie Laura. Niente, figuriamoci, a presto. Ringraziamo anche i nostri ascoltatori e vabbè, al Palio dell'Assunta ancora manca tempo. Olè! Olè!